Capitolo 47. Eretteo ed Eumolpo. Ripandione morì di dolore quando conobbe la sorte di Procne, Filomela e Iti. I suoi figli gemelli se ne divisero l'eredità. Eretteo divenne re di Atene, mentre Bute ufficiava come sacerdote di Atena e di Posidone. Da sua moglie Prassitea, Eretteo ebbe 4 figli e tra questi si trovava il suo successore, Cecrope. Ebbe anche 7 figlie. Protogonia, Pandora, Procri, moglie di Cefalo, Ceusa, Orizia, Ctonia, che sposò suo zio Bute, e Ozionia, la più giovane. Ora Posidone amò segretamente Chione, figlia di Orizia e di Borea. Essa gli generò un figlio, Eumolpo, ma lo gettò in mare per non incorrere nell'ira di Borea. Posidone vegliò su Eumolpo e fece sì che le onde lo portassero sulle spiagge dell'Etiopia, dove crebbe nella casa di Bentesicima, sua sorellastra perché figlia di Posidone e della dea del mare, Anfitrite. Quando Eumolpo divenne adulto, Bentesicima gli diede in moglie una delle sue figlie, ma poiché egli si innamorò di un'altra di loro, fu esiliato in Tracia, dove ordì un complotto contro il suo protettore, re Tegirio, e dovette rifugiarsi a Leusi. Colà egli si emendò e divenne sacerdote dei misteri di Demetra e Persefone, ai quali iniziò anche Eracle, insegnandogli inoltre a cantare e a suonare la lira. Eumolpo, infatti, era un ottimo musico e vinse la gara di flauto ai giochi funebri in onore di Ipelia. A Eleusi le sacerdotesse e sue compagne erano figlie di Celeo, e la fama della sua pietà divenne così vasta da meritargli il perdono di re Tegirio Morente, che a lui trasmise il trono di Tracia. Quando scoppiò la guerra tra Atene ed Eleusi, Eumolpo appoggiò gli Eleusini con un forte esercito di traci, vantando diritti sul trono dell'Attica in nome del padre suo Posidone. Gli ateniesi ne furono molto allarmati e un oracolo consigliò a Eretteo di sacrificare la figlia più giovane, Ozionia, se voleva sperare nella vittoria. Ozionia si lasciò guidare all'altare del sacrificio dove le sue sorelle Protogonia e Pandora si uccisero, avendo un tempo fatto voto che se una di loro fosse morta di morte violenta, le altre sarebbero morte accanto a lei. Nella battaglia che seguì, Ione guidò gli Ateniesi alla vittoria, ed Eretteo uccise Eumolpo, che si era dato alla fuga. Posidone invocò vendetta da suo fratello Zeus, che tosto uccise Eretteo scagliando una folgore, ma altri dicono che Posidone lo colpì col tridente a Macrae, dove la terra si aprì per accoglierne il corpo. Dopo il trattato di pace, gli Eleusini divennero sudditi degli Ateniesi in tutto, forché nel controllo dei loro misteri. A Eumolpo succedette il suo figliolo minore Cerice, i cui discendenti godono ancora oggi a Eleusi di grandi privilegi ereditari. Ione succedette a Eretteo, e il ricordo del sacrificio delle 3 figlie di Eretteo ancora oggi si offrono loro libagioni senza vino. Il mito di Eretteo e di Eumolpo si riferisce alla vittoria degli Ateniesi sugli Eleusini e all'origine tracio-libica dei misteri di Eleusi. Nel racconto troviamo anche traccia di un culto ateniese dell'orgiastica dea Ape, poiché Bute, nella mitologia greca, viene associato a un culto dell'ape che aveva il suo centro sul monte Erice. E il suo gemello Eretteo, colui che si affretta sull'erica meglio che colui che lacera, è lo sposo della dea attiva, cioè dell'ape regina. Anche il nome di re Tegirio di Tracia, che lasciò in eredità il suo regno al nipote Eretteo, è associato alle api. Significa infatti colui che copre l'alveare. Atene era famosa per il suo miele. Le 3 nobili figlie di Eretteo, come le 3 figlie del suo avo Cecrope, si identificano con la triplice dea pelasgica che riceveva libagioni in occasioni solenni. Ozionia, con le lunghe orecchie, che la leggenda dice fosse stata prescelta per il sacrificio, è evidentemente la dea civetta Atena. Protogonia è la creatrice Eurinome e Pandora la dea terra Rea. È probabile che nel periodo di transizione dal matriarcato al patriarcato alcune sacerdotesse di Atena venissero sacrificate a Posidone. Il tridente di Posidone e la folgore di Zeus erano in origine la medesima arma, la sacra labris o bipenne. Furono poi distinte l'una dall'altra quando Posidone divenne dio del mare e Zeus si dichiarò solo e unico padrone della folgore. Bute, che partecipò alla spedizione degli Argonauti, non apparteneva in verità alla famiglia degli Eretteidi, ma i suoi discendenti, Butidi di Atene, conquistarono una posizione di primo piano nella società ateniese verso il VI secolo e spettava a loro, per diritto ereditario, l'onore di officiare come sacerdoti di Atena Poliade e di Posidone Eretteo, che era una fusione del Posidone ellenico con il vecchio eroe pelasgico. Pare dunque che essi abbiano modificato il mito che riguardava il loro antenato, come pure alterarono il mito di Teseo, facendo un unico personaggio del Bute Attico e del loro antenato, il Tracio figlio di Borea, che aveva colonizzato Nasso e violentato Coronide, principessa dei Lapiti, durante una scorreria di Tessaglia.